Insomma, a pensarci bene, la materia della mia esperienza, che sarebbe stata la materia del mio libro, mi veniva da Swann, e non solo per tutto ciò che concerneva lui stesso e Gilbert. Era stato lui che, già a Combray, mi aveva ispirato il desiderio d'andare a Balbec, dove altrimenti ai miei genitori non sarebbe mai venuto in mente di mandarmi, e in mancanza di che non avrei conosciuto Albertine, ma nemmeno Germain, perché la nonna non avrebbe ritrovato Madame de Viparisi, né io conosciuto Saint-Leu e il signor di Charlieu, e di conseguenza Madame de Germain e attraverso lei sua cugina, così che la mia stessa presenza in quel momento in casa del principe di Germain, dove avevo avuto di colpo l'idea della mia opera, di cui gli dovevo dunque non solo la materia, ma la decisione, mi veniva anch'essa da Swann. Peduncolo un po' esile, forse, per reggere la mia vita in tutta la sua estensione, giacché in questo senso la parte di Germain era una conseguenza della parte di Swann, ma molto spesso gli aspetti della nostra vita hanno come autore una persona molto inferiore a Swann, un essere assolutamente mediocre. Non sarebbe bastato che un qualsiasi compagno mi indicasse qualche ragazza piacevole da possedervi e che poi probabilmente non vi avrei neanche incontrata perché mi recassi a Balbec. Spesso così si incontra dopo anni un compagno antipatico, a stento gli si stringe la mano, eppure, se mai ci si pensasse, è stato da una sua parola detta a casaccio, da un suo «perché non venite a Balbec?» che sono uscite per intero la nostra vita e la nostra opera. Ma noi non gli portiamo alcuna riconoscenza, senza per questo essere degli ingrati. Infatti, dicendoci quelle parole, egli non ha minimamente pensato alle enormi conseguenze che esse avrebbero avute per noi. Sono state la nostra sensibilità e la nostra intelligenza a sfruttare le circostanze che, ricevuto quel suo primo impulso, si sono generate l'un l'altra, non essendo evidentemente possibile che egli abbia previsto la coabitazione con Albertine o il ricevimento in maschera dai Germain. Il suo impulso, certo, è stato necessario, e in questo senso la forma esteriore della nostra vita, la materia stessa della nostra opera, dipendono da lui. Senza Swann, ai miei genitori non sarebbe mai venuto in mente di mandarmi a Balbec. D'altra parte, non era sua la responsabilità delle sofferenze che m'aveva indirettamente provocate. Erano frutto, queste, della mia debolezza. Quanto alla sua, l'aveva fatto soffrire a sua volta, e molto, tramite Odette. Ma determinando così la vita che abbiamo vissuta, colui ha perciò stesso escluso tutte le vite che avremmo potuto vivere al posto di quella. Se Swann non mi avesse parlato di Balbec, non avrei conosciuto Albertine, la sala da pranzo dell'albergo, i Germain. Ma sarei andato altrove, avrei conosciuto persone diverse, la mia memoria si sarebbe riempita come i miei libri di quadri affatto diversi che non posso nemmeno immaginare e la cui novità, a me ignota, mi seduce, facendomi rimpiangere di non essere andato invece verso di lei e che Albertine e la spiaggia di Balbec e Rivebelle e Germain non mi siano rimasti per sempre ignoti. Era senza dubbio al viso apparsomi per la prima volta davanti al mare, ch'io collegavo alcune cose che avrei sicuramente scritte. In un certo senso, avevo ragione nel ricollegarle adesso, perché se quel giorno non fossi andato sulla diga e non l'avessi conosciuta, queste idee non si sarebbero sviluppate, a meno che non le avesse fatte sviluppare un'altra. Ma avevo anche torto, perché il piacere generatore che ci accade di trovare retrospettivamente in un bel viso di donna viene dai nostri sensi. Non c'era dubbio, infatti, che le pagine che stavo per scrivere, Albertine, soprattutto l'Albertine di allora, non le avrebbe capite. Ma proprio per questo, ed è una sollecitazione a non vivere in un'atmosfera troppo intellettuale, proprio perché era così diversa da me, lei m'aveva fecondato attraverso il dolore e persino, all'inizio, attraverso il semplice sforzo di immaginare il diverso da sé. Se fosse stata capace di capirle, quelle pagine, per ciò stesso non me le avrebbe ispirate. La gelosia è un buon reclutatore. Quando c'è un vuoto nel nostro quadro, va a cercarci per la strada la bella ragazza che ci voleva. Se bella non lo è più, lo ridiventa, già che ne siamo gelosi. Riempirà il vuoto. Una volta morti, che quel quadro sia stato completato, non ci darà nessuna gioia. Ma questo pensiero non ci può minimamente scoraggiare. Sentiamo, infatti, che la vita è un po' più complicata di quanto non si dica, e così le circostanze, e c'è un'urgente necessità di mostrarla, questa complessità. La gelosia, che ci è tanto utile, non nasce per forza da uno sguardo o da un racconto o da una retroflessione. Possiamo trovarla pronta a pungerci fra le pagine d'un annuario, quello che per Parigi si chiama Tout Paris e Annuaire du Château per la campagna. Distrattamente abbiamo sentito la bella ragazza, diventateci indifferente, dire che avrebbe dovuto recarsi per qualche giorno da sua sorella nel Pas-de-Calais vicino a Dunkerque. Altrettanto distrattamente avevamo pensato un tempo che la bella ragazza era stata corteggiata dal signor E., con il quale ormai non si vedeva più, dato che non andava mai nel bar dove si incontravano una volta. Cosa poteva essere sua sorella? Forse una cameriera? Per discrezione non gliel'avevamo chiesto, ed ecco che, aprendo a caso l'Annuaire du Château, scopriamo che E ha il suo castello nel Pas-de-Calais, vicino a Dunkerque. Non c'è dubbio. Per compiacere la bella ragazza, ha preso sua sorella come cameriera, e se la bella non lo incontra più nel bar, è perché lui la fa andare a casa sua, lui che abita a Parigi quasi tutto l'anno ma non può fare a meno di lei nemmeno quando è nel Pas-de-Calais. I pennelli, ebri di furore e d'amore, si mettono a dipingere, eppure, se non fosse così, se il signor E davvero non si vedesse più con la bella ragazza, ma avesse raccomandato per cortesia la sorella di lei a un suo fratello che abita nel Pas-de-Calais tutto l'anno? Lei così va a trovare la sorella nel momento in cui E non c'è, forse addirittura per caso, dato che non si curano più l'uno dell'altra. E può anche darsi che la sorella non sia cameriera né in quel castello né altrove, ma abbia dei parenti nel Pas-de-Calais. Il nostro dolore del primo istante cede di fronte a queste ultime supposizioni che calmano la nostra gelosia. Ma cosa importa? Nascosta fra le pagine dell'Annuaire du Château, essa è arrivata al momento giusto, visto che il vuoto che c'era nella tela adesso è colmato. E l'intera composizione è compiuta grazie alla presenza, suscitata dalla gelosia della bella ragazza, di cui non siamo già più gelosi e che non amiamo più.